Grazie a tutti. Grazie a te. Pazienza, anche perché avete deciso, mi pare concordemente con Fiorella, di proseguire concordemente. Per cui mi pare. Hanno condiviso. E allora, come dire, mi rendo conto che dopo tante relazioni, che però sono state davvero interessanti perché non si sono discostate dall'argomento e sono state, come dire, al pezzo, all'argomento, al contenuto, importante. Innanzitutto vi dico che non era prevista la mia presenza, come sapete in Locandina era prevista la presenza di Anna Maria Santoro, che è segretaria nazionale, ma diciamo le vicende ultime che hanno portato all'elezione nostra del segretario generale nuovo, diciamo, venerdì scorso, hanno impedito poi per le incombenze successive che sono legate a queste scadenze, diciamo, a lei di essere presente. Vi porto i suoi saluti e mi scuso se, diciamo, non sarò all'altezza, ma un apprezzamento ai compagni che hanno organizzato questa giornata, questo seminario, perché mi pare molto opportuno e tempestivo per i temi che sono all'attenzione, cioè la contrattazione, ma la contrattazione come condivisione, e le reti di scuola, le reti in generale, anch'esse come strumento di condivisione. È importante anche la formula del seminario che è stata scelta, che è quella di mettere insieme docenti e ATA, le RSU di scuola, e i dirigenti scolastici, una modalità importante che appunto, diciamo così, si sposa bene con l'intento della costruzione di una mentalità di condivisione, diciamo. Condivisione per noi della FLC tendenzialmente è un metodo, diciamo, un'attitudine che abbiamo perfino nel nostro statuto. Il fatto è che noi dobbiamo costruire, purtroppo, dopo questi anni, un terreno che è stato devastato rispetto a questa possibilità invece di ritrovarsi insieme a ragionare. Perché, come dire, noi abbiamo conosciuto le stagioni governative ultime che non ci hanno aiutato da questo punto di vista, in quanto il governo è caduto oggi, ma quando si è insediato si è presentato con una cifra oppositiva, addirittura denegativa rispetto alla presenza del sindacato nello scenario sociale e politico. Perché il discorso è stato ai lavoratori, penso io, attraverso i bonus, voi fatevi da parte perché appartenete all'era precristiana, come un mio sodale, Marchionne, ha detto dei sindacati, da cui il Jobs Act, i finanziamenti alle imprese, i bonus, la 107, la 124 nel pubblico impiego. Tanto che potremmo dire che noi abbiamo conosciuto nella stagione che da oggi speriamo sia alle spalle, alle nostre spalle, una situazione per cui nell'Italia repubblicana, dopo il peggio sulle relazioni sindacali rappresentate dai governi Berlusconi, abbiamo conosciuto il peggio del peggio nella misura in cui si diceva che i sindacati non devono esistere nello scenario politico, mentre il precedente governo berlusconiano tentava di dividerli in buoni e in cattivi. C'era la CISL e la UIL con cui si poteva parlare, la CGIL comunista era da cancellare. Questa volta erano da cancellare tutti i sindacati. Però noi in questi anni abbiamo resistito, almeno parlo della CGIL. Ha indicato una proposta che è stata quella del piano del lavoro, che tutti tendono a dimenticare, perché chiaramente poi si dimentica facilmente il fatto che una forza che non ha la forza governativa e non ha i media a portata di mano per poterli far conoscere, diciamo, passa sempre per essere una forza che non propone, in realtà. E la stessa cosa si dice della FLC, che quando dice dei no, dice no, poi non propone, però cosa proponete? E ci ritornerò su questa storia della proposta. Ma il sindacato ha resistito, ha raccolto le firme, andremo a dei referendum sul Jobs Act, sugli appalti, sui voucher, e il 1,5 milioni di firme che sono state raccolte anche per il nuovo statuto dei lavoratrici e dei lavoratori, si spera che appunto impongano la discussione parlamentare, perché questo Parlamento evidentemente ha la possibilità anche di non prendere in considerazione le firme che si raccolgono, cosa straordinariamente antidemocratica. Ma c'è stato qualche cosa che è cambiato in questi ultimi mesi: un'elezione amministrativa che ha fatto, diciamo, ragionare meglio il governo ormai caduto, e poi la scadenza elettorale del referendum, che in qualche modo ha fatto fare una rincorsa su tutti i fronti, diciamo, per accontentare pezzi o meno dell'elettorato, che però ha saputo distinguere, come abbiamo visto, fra quello che è un bene di prospettiva, qual è una Costituzione, che è uno strumento in mano a tutti, da un bene, diciamo, a scadenza, qual è un governo, e che può essere sostituito. Contrariamente invece a una Costituzione che prima di essere smantellata ha bisogno di essere capita. E la gente non ha capito o non ha voluto che la nostra Costituzione, visto che erano tutti interessati, i cosiddetti poteri forti, finanzieri, industriali, banchieri, a dire che bisognava smantellarla, il nostro popolo ha detto di no. E questo ha consentito, ad esempio, nella scuola di fare in fretta a varare la card dei docenti entro il 30 novembre, magari in maniera, diciamo così, anche migliore dal punto di vista della spendibilità rispetto a quella dell'anno scorso, anche con tutte le faticosità che bisogna fare per acquisire, diciamo, le entrature, a spenderle finalmente. Poi addirittura abbiamo avuto il contratto dei metalmeccanici, per noi è emblematico il contratto dei metalmeccanici, scusate se ne parlo in questa sede, ma è sempre stato un punto guida di svolta nelle relazioni sindacali, e il fatto che si sia fatto unitariamente e che la FIOM non sia stata, diciamo, emarginata, ma è stata protagonista principale, ha avuto anch'esso un significato politico dentro questo contesto, per arrivare poi appunto entro il 30 novembre, una data fatidica, diciamo, all'accordo sul pubblico impiego. Ecco, consentiteci di dire qualcosa sull'accordo del pubblico impiego, perché è bene, abbiamo il dovere come dirigenti nazionali dell'organizzazione, in qualsiasi occasione, di coglierla e informare i lavoratori, perché poi da qui bisogna partire per fare una campagna di massa di informazione e di confronto con i lavoratori sull'accordo del 30 novembre, che è un accordo di prima grandezza, noi così la valutiamo, perché è un accordo di svolta. Ora si consegna al nuovo esecutivo di implementare questo accordo, ma il fatto che sia stato, diciamo, sottoscritto con un governo che pure veniva preso dall'orticaria quando si parlava di sindacati, ciò vuol dire che, insomma, in qualche modo i nuovi dovranno fare i conti che le rappresentanze sociali non possono essere ignorate, messe da parte, obnubilate del tutto. Cosa dice questo accordo? Dice che con i sindacati si può parlare, si possono fare accordi. Una grandissima svolta. Dice che le risorse nel triennio 16-18 passano da 300 milioni, che corrispondono a 8 euro lordi al mese a dipendente medi, a 5 miliardi, che corrispondono a minimo 85 euro medi lordi al mese, che noi sappiamo non essere corrispondenti in toto a quanto abbiamo perso, perché il calcolo non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto l'Avvocatura dello Stato e parlava di 7 miliardi, ma contemporaneamente, diciamo così, abbiamo avuto vari contratti dei privati che in qualche modo hanno dato una misura e che poi anche per sentenza di Corte Costituzionale, diciamo così, si impone di rinnovarli, ma non si impone evidentemente il recupero, perché è una questione, diciamo così. Allora l'alternativa è: non ci accontentiamo di questi annunciati 5 miliardi e andremo a fare, diciamo così, ricorsi magari per arrivare alla Corte Costituzionale, oppure, guardando l'accordo, apriamo, poi vediamo, diciamo così, come andare avanti. E siamo passati dalla sottrazione di molte materie al contratto, che sono state poi legificate, a un ritorno al contratto, perché quell'accordo dice che bisogna reintervenire sulle leggi e bisogna, ad esempio, eliminare, cosa fondamentale, nell'intervento di Maristella mi pare che ne abbiamo colto tutta la drammaticità, perché la sua fatica molto precisa, molto quasi dotta ma precisa, ha voluto dire che noi dovevamo agire le intese, gli accordi, le concertazioni, ma perché? Perché erano state sottratte le contrattazioni, le materie delle contrattazioni. Ebbene, per noi vuol dire che il ritorno a contrattazione significa bonus, significa chiamata diretta, significa formazione, significa mobilità. Questo per noi significa. Io rivelo qui che ci sono stati due incontri, l'ultimo fiume per poter chiudere entro il 30 novembre, data fatidica e funzionale. E nel primo incontro della scuola non si era parlato, perché quando si parla di pubblica amministrazione, di pubblico impiego, la scuola è un po' come un appendice, si parla di 124, si parla di enti locali, di sanità, la scuola seguirà, un po' come l'intendenza, diciamo, delle masserizie. Poi si vede, tant'è vero che le conseguenze si vedono ogni volta che viene approvata una legge che riguarda l'amministrazione pubblica, perché quando si tenta di applicarla alla scuola si vede che c'è qualche problema. Quindi noi, quando diciamo, prima di fare approvare delle misure, perché non consultate le forze sociali, diciamo, del settore o il Ministero dell'Istruzione, in modo tale, insomma, che non si addivenga poi a una situazione di ingestibilità, per cui bisogna reintervenire di nuovo a correggere, però dopo aver passato 4-5 mesi col patema d'animo da parte di gente scolastica, ma ci riguarda, non ci riguarda, lo facciamo, lo dobbiamo fare, non dobbiamo fare, e così via. No, dicevo questo, che la scuola non c'era. E siamo stati noi, parlo della FLC, ma parlo anche della CGIL, ad onor del vero, che ha preteso che quando si parla di riconduzione delle tematiche dentro il contratto si deve parlare anche della 107, della scuola. Tant'è vero, non so se l'avete sentito, le dichiarazioni immediate dopo la firma da parte della Camusso, che ha sottolineato riguarda anche la scuola questo accordo. Diciamo, e quindi, per esempio, gli atti unilaterali, se l'accordo viene implementato, non esisteranno più, o almeno esisteranno in modo tale che siano ingabbiati, cioè tu mi devi spiegare perché lo devi fare e quanto ti deve durare questo atto unilaterale. Questi sono i contorni, diciamo, che vengono disegnati oggi. E poi addirittura si dice che nella implementazione delle riforme, quando si attuano le deleghe, si parla della 124 sul pubblico impiego, ma anche della 107, bisogna monitorare insieme con i sindacati. Guardate che finora i sindacati, torno a dire, non c'erano nell'orizzonte politico e culturale del Blair italiano. Ora, noi ci siamo soffermati su questa questione perché, appunto, è bene che ne prendiamo contezza ed è bene però che sappiamo una cosa, che è solo l'inizio di un percorso. Se questi sono i contorni generali, tuttavia non è un contratto, non sono i contratti. Sono le premesse per i contratti. Per esempio, la prima cosa che noi dobbiamo chiedere è che le amministrazioni competenti, per noi il MIUR, facciano gli atti di indirizzo che riguardino la scuola, l'università e la ricerca, perché vi è un nuovo comparto, un comparto che è stato istituito un anno fa e che, anzi dopo, anche più recente, e che, diciamo così, si chiama dell'istruzione e della ricerca, noi l'abbiamo chiamato della conoscenza, ma contiene in sé esattamente tutti i settori della conoscenza che noi organizziamo, tant'è vero che noi siamo come CGL già pronti come organizzazione, abbiamo la FLC, gli altri sindacati si devono dar da fare per unificare, se vogliono partecipare allo stesso livello nostro, per unificare i settori dell'università, della ricerca, diciamo, alla scuola. Allora è per noi una priorità politica spenderci questo accordo, vedere come lo possiamo implementare. Io invito, da questo punto di vista, in ogni occasione dove me se ne dà l'occasione, diciamo, gli organismi territoriali ad organizzare l'incontro con i lavoratori affinché si faccia un apprezzamento fino in fondo e si vedano quali sono le potenzialità e i limiti di questo, di quest'accordo. E tuttavia possiamo dire anche che il tema dell'accordo che ho brevemente tracciato, le cui linee ho tracciato, non sfugge, diciamo, a quello che è l'argomento di oggi, che è quello della contrattazione e della condivisione, perché poi se noi effettivamente eliminiamo il comma 3 ter dell'articolo 40 che disponeva e dava alle amministrazioni il potere di fare ciò che voleva dal punto di vista contrattuale, di rispettare o non rispettare, fare atti unilaterali, ebbene questo ha un riverbero immediato, diciamo così, nelle questioni scolastiche, perché laddove vi è una dirigenza che non vuole condividere perché non capisce che la contrattazione è un grande strumento di condivisione, un grande strumento di consenso, si vogliono fare atti, diciamo così, di imperio, evidentemente queste aperture della Brunetta avevano determinato una situazione tale per cui noi eravamo molte volte in difficoltà. Ma veniamo allo specifico tema delle reti. Guardate, io sono molto critico, ve lo dico subito, diciamo, sulla questione delle reti. Noi abbiamo una posizione critica perché è stato un altro dei passaggi della 107 che in qualche modo crea delle grandissime difficoltà di rapporto sul piano della democrazia e della partecipazione. Mario Sironi, Maristella hanno molto molto ben argomentato, anche Elvira, le questioni che stanno alla base delle reti, a cui noi, lo diciamo subito a scanso di equivoci, vogliamo partecipare, vogliamo starci, ma vogliamo porne in evidenza tutti i limiti e tutte le contraddizioni, perché vogliamo starci nella chiarezza, senza evidentemente partecipare supinamente a quelle che noi riteniamo essere delle vere e proprie imposizioni e delle torsioni autoritarie che non ci convincono, sia sul piano della nuova governance, sia sul piano, diciamo, del rapporto con le professionalità. In modo particolare le professionalità dei dirigenti scolastici, ma tutte le professionalità che ne escono, a nostro parere, mortificate, tutte, da quelle della dirigenza scolastica fino agli assistenti amministrativi. Ora, noi non nascondiamo, quando parliamo di reti, diciamo, abbiamo una certa sofferenza, perché questa parola un po' è stata connotata di tanti significati, no? Cioè, voglio dire, uno stesso significante, uno stesso suono, ma i significati poi sono diversi. E quando viene pronunciata, la cosa che più mi disturba è che viene pronunciata per tranquillizzare, perché tutto sommato la rete che cos'è? È fatta di nodi, i nodi si connettono fra loro, ognuno è autonomo, ogni nodo poi alla fine è autonomo. E allora ci tranquillizziamo, c'è la rete, poi se voglio aderisco, se voglio non aderisco, voglio faccio, voglio non faccio, eccetera, eccetera. Ora, il problema è che invece con la 107, con queste reti di ambito, le cose stanno molto cambiando. Molto cambiando. E allora, già lo ha fatto in maniera molto precisa Mario Cironi, ma io vorrei evidenziare quali sono le differenze però fra le reti del 275 e le reti della 107, perché ci sono delle differenze. Le differenze nella pratica, per come vengono proposte. Guardate, il DPR 275 è l'unico vero strumento normativo che regola l'istituzione delle reti. E non è stato toccato questo strumento normativo. Voi, come avete visto, la stessa 107, quando ha voluto toccare, lo ha detto esplicitamente, no? Il POF diventa PTOF, articolo 3 che viene cambiato, il DPR 275, il comitato di valutazione viene fatto diversamente, si cambia l'articolo 11 del 297 e così via. Si è detto qualcosa sul cambio del 275 sulla questione delle reti? No. E allora vediamole queste reti. Le reti sono solo reti di scopo. Hanno una circoscrizione di ambito, ma sono reti di scopo. Mi pare che lo dicesse lo stesso Mario o Elvira, no, Elvira, quando diceva noi abbiamo fatto l'ambito e poi sulla questione della formazione si dava a questo ambito il comando nella scuola già individuata. Dice no, noi vogliamo discutere di questo. Ma è un segno di vitalità e di chiarezza, perché anche le reti di ambito che designano una circoscrizione debbono avere scopi precisi, cioè devono essere reti di scopo, sia pur di ambito. Altrimenti sono illegittime, se non è stabilito con precisione che cosa devono fare, qual è l'obiettivo. Altrimenti sono illegittime queste reti di ambito. Perché nel 285 si dice che per fare una rete occorre l'adesione libera, libera, non imposta, né nei tempi né nei modi. E non mi pare che con l'intervento degli USR siamo stati liberi nei tempi e nei modi. E ci ritorno. Si deve costituire su scopi precisi. Se gli scopi sono di carattere didattico, di sperimentazione, di ricerca, di formazione, di orientamento, deve essere il collegio dei docenti ad approvarlo. Lo dice il 285, torno a ripetere. Ma guarda, lo dico perché poi, quando faccio l'analisi dei documenti del 7 di giugno, noi troviamo che il collegio dei docenti è scomparso dai documenti del 7 di giugno, scomparso, si parla solo del consiglio d'istituto. Ed è un'illegittimità. Se si fanno operazioni che implicano reti che si occupano di formazione e l'elenco che ho fatto precedentemente. Ora, se questo è il 275, poi ogni rete deve avere il suo coordinatore, la sua scuola polo e così via. Se implica spesa, ci vuole un contributo. Si è sempre fatto questo e c'è scritto nel DPR 285. Nella legge 107 invece ci sono due o tre ambiguità che danno molto da discutere. La prima è stata questa della promozione che viene intestata in capo agli USR entro il 30 giugno. Allora intendiamoci, lo diceva bene Mario, ma c'è una contraddizione, perché c'è una promozione e poi si dà una data e poi si impone di farli, e dall'altro lato invece c'è quasi appunto un obbligo, no? La promozione vuol dire io ti incoraggio a, ma ti riconosco che tu sei libero di farlo o non farlo, non che io ti dico farla se no ti valuto pure male, perché noi sappiamo che molti USR hanno scritto proprio questo ai dirigenti scolastici: tra gli obiettivi che vengono dati per la valutazione si dice anche sarete valutati se non fate le reti, valutati male se non fate le reti. La seconda ambiguità, secondo me, è la questione di imporre un accordo con tanto di modello. Ma chi l'ha detto? Nel senso che l'accordo uno lo fa secondo gli statuti giuridici che si sceglie e non secondo il modello che tu mi dai. La terza è quella di istituire la conferenza di servizio. Ora, Mario ne ha spiegato bene, diciamo, l'ha studiato e mi conforta, ma la conferenza di servizio, come io la conoscevo, è stata fatta per velocizzare i procedimenti. Si mettono insieme varie amministrazioni, e però si deve prendere atto se qualcuno non è d'accordo, perché appunto io formalizzo il mio disaccordo e poi se tu vai avanti ne vediamo le conseguenze. Si presuppone un'unanimità nelle conferenze di servizio. Allora, voglio dire, da queste ambiguità poi, su queste ambiguità, si innestano i documenti del 7 di giugno. Guardate che i documenti del 7 di giugno fanno molte forzature, molte forzature. Innanzitutto noi vorremmo sottolineare un fatto. Una volta usciti, e non sapevamo che c'era un gruppo che ci lavorava, e per la legge della trasparenza bisognava mettere sul sito chi è che se ne occupava di questa cosa. Noi apprendiamo che è la Paolucci che c'è stata. Boh, non abbiamo più chiesto, ma lo sapete che la legge della trasparenza impone che voi pubblichiate i nomi, i componenti? Sì, lo faremo. Non l'hanno fatto prima, l'hanno fatto dopo, non ce l'hanno mandati e così via. Ma mica per altro, per un fatto formale. Magari se avessimo saputo, non so, avremmo potuto dare dei suggerimenti. Forse è per questo che la legge prevede che si dica chi sono i componenti, per consentire al cittadino di partecipare o alle forze organizzate di partecipare. Ma di fronte alla nostra obiezione, ecco, ci è stato detto: ma no, ma si tratta di un documento di studio, non sono direttive. Ma è mai possibile che tutti possano scrivere sulle reti e noi governo, noi ministero non possiamo scrivere le nostre idee sulle reti? Ma se tu quelle cose le presenti non come documento di studio, ma le intesti direttiva e le dai in mano agli USR, ai quali, diciamo così, poi fai seguire una filiera di comando fino ai dirigenti scolastici, è chiaro che stiamo parlando di altro. Non stiamo parlando, diciamo, di qualche cosa che rende le scuole libere o più forti o potenzialmente, diciamo così, con un'ulteriore opportunità. Stiamo parlando di altro. Quindi, a parte il ridicolo poi del 30 giugno che è stato subito superato, però a noi hanno dichiarato, e l'hanno anche messo per iscritti noi dei documenti, che quelli erano documenti di studio, non documenti di indicazione, non documenti di linee da seguire per forza. E io questo lo voglio dire e lo voglio ricordare, perché altrimenti ci sfuggono alcuni caratteri, diciamo così, di base di questa discussione. Ecco, una prima questione che noi contestiamo alla radice è questa. Non nella legge, ma nei documenti si parla della istituzione di una nuova organizzazione, di una nuova governance. Ma noi non siamo d'accordo che si istituisca in questo modo surrettizio, senza passare nemmeno per una legge, e la legge 107 non ne parla di nuova governance. Se vi andate a leggere il testo non c'è. Che si istituisca una nuova governance. Perché la nuova governance si costruisce attraverso la riforma degli organi collegiali. La vogliamo fare o non la vogliamo fare? La vogliamo discutere o non la vogliamo discutere? Noi abbiamo delle proposte, a proposito delle proposte, che noi non avremo sugli organi collegiali, e da molti anni, e li abbiamo anche sperimentate poi nella discussione che c'è stata quando si tentò di fare la riforma degli organi collegiali nel 2011-2012 sotto il governo Monti, se vi ricordate. Quindi non è rinvenibile questa nuova governance nella legge 107. così come non è rinvenibile la costruzione di reti di ambito. Guardate, lo diceva Mario nella sua introduzione, non so se nel comma 93 o 63 della 107 si parla della istituzione degli ambiti, ma badate bene, ai fini della nuova costruzione dei ruoli docenti. Ruoli docenti, si parla del ruolo dei docenti. Si costituiscono degli ambiti dentro cui vengono innestati i docenti, e parla solo di docenti, non è che sono gli ATA, cose. E per il reclutamento. Si parla cioè di una categoria della scuola importante, ma l'ambito è funzionale appunto alla questione del ruolo, non è funzionale a tutto il resto. E quindi è un'altra invenzione, un'altra forzatura, guardate. Così come è una forzatura dire, sempre nei documenti ma non nella legge, che le reti di ambito poi assumono rappresentanza generale. Lo contestava il Vila nella sua introduzione, e cioè il capofila della rete diventa l'interlocutore di tutte le istituzioni su tutti gli argomenti. No, perché non è che la rete di ambito sia propria di tutti gli argomenti di questa terra, ma la rete di ambito, se vuole avere questa circoscrizione di ambito, torna a ripetere, deve definire gli scopi, e quindi anch'essa è una rete di scopo, sia pura circoscrizione di ambito. E che si voglia arrivare a una torsione di questo tipo, per cui poi l'ambito comanda un po' su tutte le scuole dell'ambito, tramite la filiera di comando che viene dall'USR, se vi leggete bene anche i documenti di giugno, si dice apertamente che le reti di scopo poi costituite dentro l'ambito ubbidiscono all'ambito. Forse sarà sfuggito, ma c'è scritto così, che le reti di ambito danno ordini poi alle reti di scopo. Insomma, si sta costruendo surrettiziamente una cosa che nella legge non c'è, che non abbiamo discusso, che è quella di una nuova filiera, a tal punto che si dice che i dirigenti scolastici vengono valutati se li costituiscono o li costituiscono. E dunque noi, per tutti questi aspetti illiberali, irrispettosi dell'autonomia, noi non siamo d'accordo a che si proceda così. Un'altra questione, ma l'abbiamo già ricordata, è che quei documenti non fanno menzione del collegio dei docenti, che è un grave vulnus alla professionalità dei docenti e degli organi collegiali, e dei poteri, delle prerogative degli organi collegiali. Infine, e mi fermo per quanto riguarda la parte, diciamo, critica di questa, come dire, produzione amministrativa impropria da parte del Ministero, vi è una questione anche di carattere contrattuale. Se effettivamente si formano delle reti in cui vengono impiegati docenti, ATA, assistenti amministrativi, a pro della rete. Ma vogliamo discuterne col sindacato o no? Cioè, quanto si pagano? Come si pagano? Con quali risorse? In quali ambiti lavorano? E così via. E noi abbiamo una prerogativa contrattuale territoriale a cui non intendiamo evidentemente sottrarci. Non è la singola scuola, ma certamente il provinciale, ad esempio, che raggruppa un certo numero di ambiti. Ecco, guardate, tutte queste cose noi le abbiamo dette a un incontro che abbiamo, fatto il 14 novembre al Ministero, che abbiamo chiesto. E allora è venuto fuori questo, da quell'incontro, che la questione dell'individuazione della scuola polo dell'ambito per la formazione non significa che le scuole debbano aderire, altrimenti perdono i soldi. Dovranno fare una specificazione che stiamo ancora attendendo, purtroppo, ma evidentemente gli impegni politici di tutti gli amministratori rispetto al referendum li hanno un po' distratti. Ma noi stiamo attendendo una nota in cui si specifichi che le scuole che hanno deciso di non aderire all'ambito fruiscono lo stesso dei soldi della formazione. e che quindi è solo un fatto funzionale che le scuole vengano trasferite ad una scuola polo dell'ambito. Allora, si è formato o non si è formato l'ambito? Diteci un nome di una scuola dove noi vogliamo trasferire queste risorse per la formazione. Dopodiché io scuola posso, altra scuola dell'ambito, non aderire, ma devo fruire lo stesso dei servizi, diciamo, della formazione. Non so se è chiaro. Questo è l'impegno che essi hanno preso nei nostri confronti il 14 novembre. Stiamo attendendo che questa cosa, diciamo, venga diramata. Così come anche hanno preso l'impegno a specificare ai dirigenti scolastici, anzi ai dirigenti regionali, che debbano cassare dalle loro direttive rispetto agli obiettivi che i dirigenti devono perseguire proprio la formazione della rete di ambito. Noi abbiamo parlato con quel tizio lì, con Previtali, il quale ha preso l'impegno a comunicare una cosa di questo tipo. E in più, ma queste sono chiacchiere, adesso vediamo, si sono impegnati a proseguire meglio il dibattito con noi senza procedere con successivi atti unilaterali rispetto alle questioni delle reti. Allora, ecco, la cosa che, diciamo così, noi vogliamo sottolineare non è che siamo contro le reti, riprendiamo il discorso, le incoraggiamo, anzi, siamo contenti. Nella chiarezza, si facciano a qualsiasi livello territoriale, nazionale, di ambito regionale e così via, insomma, per carità, ma devono essere libere e si devono fare sulla base del 275, senza espropriare le prerogative dei dirigenti scolastici, dei consigli di istituto e dei collegi dei docenti, perché in questo modo si sta andando verso un'espropriazione e una coartazione delle volontà degli organi collegiali e dei dirigenti scolastici. Questo è il nostro discorso. E allora vado a concludere. Nell'immediato noi pensiamo che bisogna aderire alle reti, ma che gli scopi siano precisati, come diceva Elvira. Qual è lo scopo dell'ambito? È la formazione? Qualcos'altro? E badate, ogni collegio dei docenti deve approvare se si tratta di quegli argomenti, altrimenti sta facendo un atto autoritario e illegittimo. Ecco, e poi noi lo diciamo esplicitamente, guardate, io non lo so se entro in contraddizione anche con una parte di voi o della dirigenza scolastica, però da tempo noi abbiamo denunciato il fatto che questa autonomia nel 2000 partì con l'intento di istituire i CSA e i CIS. Noi non l'abbiamo dimenticato questo. I CSA erano dei luoghi amministrativi territoriali che sgravavano le scuole dalle incombenze amministrative che oggi più di ieri le segreterie non possono fare, perché le segreterie sono massacrate da tutti i massacri che noi sappiamo, e non mi fate ripetere perché sennò mi faccio il sangue e acqua, perché non riusciamo ad ottenere, diciamo, nonostante tutte le grandi denunce, quello che sta avvenendo nelle segreterie scolastiche. Ma i lavori seriali, le ricostruzioni, devono essere spostate fuori dalla scuola. Perché deve essere solo la scuola, l'amministrazione massacrata poi nelle sue, diciamo, professionalità, doversi far carico di queste cose, di una normativa che cambia tutti i giorni e che è impossibile da seguire? Ecco perché noi sconsigliamo caldamente, guardate, ve lo diciamo, di aderire a reti che si facciano carico dei lavori seriali delle amministrazioni, perché per noi il discorso è si collocano fuori queste cose. Della contrattazione abbiamo già detto, e quindi diciamo che alla fine costruiamo le reti, ma che le reti siano di scopo e le reti siano autogovernate. Noi riteniamo illegittimo anche questa forma della conferenza, eccetera. Ci sono già gli strumenti. E noi non vogliamo che magari la rete in questo modo costruisca tanti terminali degli USR che poi, diciamo così, no? Poi a loro volta riversano alle scuole le comunicazioni. Questa è la nuova governance a cui hanno pensato. Ma la governance deve passare attraverso le leggi, non attraverso atti amministrativi, documenti di studio di 7 di giugno. Perché di questo si tratta. Per il futuro, e concludo, noi siamo questa è la nostra proposta, per costruire davvero una nuova governance. Ora, ma incardinata dentro tutta la costruzione dei nuovi organi collegiali, diciamo. Noi sappiamo quanto, diciamo, la disfunzionalità di alcuni organismi pesi sulla professionalità, non dico altro, dei docenti. Penso ai consigli di classe con le presenze dimezzate in termini orario, diciamo, con la presenza di studenti, di genitori, eccetera. Cosa c'entra? Cioè, voglio dire, noi dovremmo fare delle revisioni profonde, diciamo, non eliminando evidentemente la partecipazione, dando altre sedi, altri luoghi e così via. Ma non voglio parlare qui della riforma degli organi collegiali nel complesso. Voglio dire che, per quanto riguarda le reti e la rappresentanza, queste reti, che sono necessariamente reti di scopo, non possono avere una funzione generalista, una funzione di rappresentanza istituzionale. Ma ciò non vuol dire, come diceva già Mario Sironi, che noi non dobbiamo tentare di costruire effettivamente una rappresentanza delle scuole che però abbia un potere politico istituzionale vero, riconosciuto, che non sia quello costruito in questo modo, subordinato a una filiera, e che abbia una rappresentanza plurale. Guardate, diciamola così: quando c'è stato il dibattito con il governo Monti sulla riforma degli organi collegiali, si stava prefigurando qualche cosa che non andava molto lontano, poi c'erano tantissimi altri problemi per cui noi eravamo contrari, molto lontani dalla costruzione delle cosiddette rappresentanze delle scuole autonome a livello nazionale. Si chiamava Consiglio delle Autonomie, cioè le scuole autonome arrivavano a rappresentare se stesse addirittura a livello nazionale, passando per il livello regionale. Poi c'erano delle cose da discutere, però non è qualche cosa di straordinario, di campata in aria, di cui stiamo parlando noi da molti anni a questa parte, quello cioè di costituire con un riconoscimento di legislazione la rappresentanza delle scuole autonome che abbia effettivamente una capacità di rappresentanza generale, istituzionale. E però a quel punto non può essere solo il rappresentante legale, cioè il dirigente scolastico, a rappresentare le autonomie, guardate. Perché vedete, il dirigente scolastico è parte, ma è reclutato dallo Stato, rappresenta lo Stato e, come dire, ha una funzione amministrativa fondamentalmente, che poi si spende per la sua provenienza docente anche sul piano didattico, sul piano organizzativo, perché conosce i meccanismi, e non è a caso che deve provenire dalla docenza, che ne dicano altri sindacati che invece non cessano, dei dirigenti scolastici che non cessano di dire che chiunque poi possa fare il preside, si faccia una bel mélange. Ad esempio, avrebbero voluto che nella 124 i dirigenti scolastici, diciamo, potessero mescolarsi nella seconda fascia anche con gli altri dirigenti, così avremmo avuto, come diceva una volta, no? Qualche collega ci viene a dirigere il dirigente del catasto. No, c'è la questione che il dirigente scolastico, vuoi o non vuoi, ha una funzione di filiera, per cui deve rispondere poi, no? Nella valutazione stessa, che noi contestiamo in nuce, voi lo sapete che siamo contrari a questo tipo di valutazione, come è stata fatta, perché poi i valutatori sono di nomina governativa e non c'è la terzietà, l'imparzialità per questa nomina. Però ecco, alla fine diciamo che il dirigente scolastico in qualche modo è funzionario di Stato. Noi pensiamo che la scuola non sia solo un pezzo dello Stato, un pezzo dell'amministrazione. La scuola costituisce una formazione sociale, quella che viene chiamata così dall'articolo 5 della Costituzione, dove vi è una rappresentanza sociale plurale, per cui se a livello di zona, di ambito regionale, con elezioni di secondo livello, si eleggono i rappresentanti fino ad arrivare al nazionale, si costituisca allora una rappresentanza generale vera delle scuole autonome e si cessi di fare confusione fra reti e collegi o coordinamenti. Sironi parlava dell'ANCI della scuola, no? Per intenderci, perché poi A mio parere è sempre bene cambiare, diciamo, le nomenclature per non fare confusione. E di che cosa si dovrebbe occupare? Ecco, naturalmente la rappresentanza, dicevo, deve essere tutti i soggetti sociali della scuola, parlo degli docenti in modo particolare, parlo degli altri, parlo dei genitori, parlo degli studenti. Si devono costruire accanto ai dirigenti scolastici, mancherebbe altro. Ma dobbiamo saper distinguere quella che è la rappresentanza legale dalla rappresentanza dell'autonomia, che è un'altra cosa. La rappresentanza dell'autonomia come formazione sociale. Di che cosa si dovrebbero occupare? Lo diceva già Mario. Il dimensionamento, la mensa, edilizia, sicurezza, risorse, cioè si dovrebbero esprimere su queste cose. Pareri obbligatori, non hanno certo il governo, però possono dire per Diana una loro voce su queste cose. In realtà no, le scuole non hanno autonomia, sono deboli, sono l'ultima autonomia come vaso di coccio in mezzo a grandi autonomie che le schiacciano. E cosa pensiamo? Davvero che con le reti di ambito noi riusciamo a dare rappresentanza e forza alle scuole quando è poi sempre l'USR a dire cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare? Noi pensiamo di no. Allora, queste sono le nostre proposte. Siamo un'organizzazione che le ha sempre avanzate. Misuriamoci su queste cose. Chiediamo che i nostri interlocutori facciano lo stesso, senza, diciamo così, venirci a dire che proposte avete. Le nostre proposte sono elaborate, precise, lavoriamo su queste cose, naturalmente, diciamo, siamo disponibili a qualsiasi confronto. Grazie.